Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Vi sarà capitato, passeggiando in un bosco o nei pressi di corsi d'acqua o di altri siti, aree umide come la Laguna di Venezia, di imbattervi in cartelli, magari con delle cartine e delle fotografie, e poi una scritta particolare che dice che in quel sito vi è stato un intervento realizzato con il contributo dell'Unione Europea. Ecco, l'Unione Europea investe molto sul tema ambientale. Perché lo fa e con che strumenti, in che modo, lo chiediamo a Giulio Volpi della Starter di Padova, società di consulenza che si occupa di programmi e finanziamenti comunitari, in particolare proprio nei settori dell'agricoltura, delle foreste e dell'ambiente. Ecco Giulio Volpi, come avviene questo e perché? Bene, l'Unione Europea ha delle sue politiche, come per esempio la politica agricola, la politica ambientale, oltre alle politiche sociali ed altre, e per sostenere queste politiche, cioè per far sì che all'interno degli Stati membri i singoli operatori, pubblici o privati, si muovano in direzione coerente rispetto a queste politiche, finanzia dei progetti. Questi progetti in alcuni casi possono essere finanziati direttamente dalla Commissione europea, in altri casi attraverso altri organismi nazionali o regionali, sono quindi orientati a far sì che queste politiche comunitarie, che sono una grande strategia promossa su tutti i paesi dell'Unione dalla Commissione, possa quindi prendere atto, possa diventare veramente operativa. Per fare questo, ogni 7 anni, viene stabilito il bilancio dell'Unione Europea. All'interno di questo bilancio vengono individuate le risorse che poi attraverso i singoli programmi vengono gestiti per finanziare questi progetti che aiutano a raggiungere, ad avvicinarsi alle strategie, alle grandi strategie comunitarie. E dicevamo che questa programmazione viene fatta ogni 7 anni. Proprio quest'anno, 2014, sta iniziando la nuova programmazione 2014-2020, cioè stanno iniziando ad essere spese queste risorse che sono state decise alla fine dello scorso anno e che permetteranno di finanziare i progetti che dovranno aiutare gli Stati membri ad avvicinarsi il più possibile alla grande strategia cosiddetta Europa 2020, cioè la strategia di sviluppo per l'intera Europa che è stata pensata e formalizzata all'interno di alcuni documenti comunitari. In questo modo tutti i singoli operatori, torno a dire pubblici e privati, hanno modo o avranno modo di realizzare delle iniziative per favorire il raggiungimento di questi obiettivi, soprattutto per quanto ci compete a noi come società di consulenza che si occupa in particolare di alcuni temi come l'agricoltura e l'ambiente. Ecco, soprattutto su questi temi ci saranno delle risorse messe a disposizione per realizzare progetti utili a raggiungere gli obiettivi europei su agricoltura e ambiente. Ecco, quando parliamo di progetti, di cosa stiamo esattamente parlando? E poi sono progetti grossi o possono essere anche progetti di ridotte dimensioni? Allora, i progetti sono assolutamente diversificati, perché ciascun progetto fa riferimento ad un programma, nel senso che all'interno di questi programmi vengono scritti a livello europeo delle norme che indicano i contenuti che devono avere questi progetti, e programma per programma possono essere finanziati progetti di dimensioni diverse, di caratteristiche diverse, con partenariati diversi. Ad esempio, ci possono essere progetti rivolti a soggetti pubblici o a soggetti privati o a entrambe queste tipologie di soggetti. Ci possono essere dei progetti che obbligatoriamente richiedono dei partenariati transnazionali, cioè la partecipazione di partner provenienti da più soggetti. Ci sono progetti che per loro natura devono avere delle dimensioni anche finanziarie piuttosto consistenti, superiori al 1 milione, 2 milioni di euro o anche di più, e altri progetti invece che possono essere anche di dimensioni molto più contenute, magari realizzati da parte di soggetti privati, che in questo modo, per esempio, possono avere la possibilità di migliorare la propria dotazione strutturale, parlo per esempio di piccole e medie imprese che possono avere la possibilità di continuare a produrre magari riducendo l'impatto sull'ambiente, l'impronta ecologica, tutte cose appunto in sintonia rispetto a quelle che sono le grandi strategie europee per l'ambiente previste per da Europa 2020. Ecco, ti viene in mente un qualche progetto realizzato in territorio veneto di particolare interesse? Ma noi seguiamo soprattutto progetti realizzati da soggetti pubblici. Da questo punto di vista, per esempio, abbiamo realizzato sui Colli Uganei, ancora diversi anni fa, un grande progetto di riqualificazione del territorio dell'area dei Colli Uganei, l'area del parco regionale, con miglioramenti sia della parte boschiva sia della parte prativa, che tra l'altro è molto interessante dal punto di vista ecologico perché è una fonte molto importante di biodiversità per tutta l'area padano-veneta. Un altro progetto interessante sul quale stiamo lavorando attualmente, per esempio, tematica un po' diversa, riguarda la migliore gestione dell'acqua dolce nelle aree marine costiere. Le aree marino-costiere sono in questo momento interessate da profondi cambiamenti a seguito dei cambiamenti climatici. Questi cambiamenti climatici determineranno una necessità di riprogrammare in qualche modo le modalità d'uso del territorio, soprattutto nelle aree marine-costiere, perché saranno le prime a risentire in maniera forte degli effetti del cambiamento climatico attraverso per esempio l'innalzamento del livello medio marino, attraverso una modifica dei regimi pluviometrici, cioè delle modalità con le quali le piogge si distribuiscono nel corso dell'anno, insomma tutta una serie di fattori che determineranno una serie di scompensi. Ecco, c'è un progetto finanziato dalla Commissione Europea proprio qui in Veneto, il capofila è l'Agenzia regionale Veneto Agricoltura, che si occupa di capire come far sì che le zone litoranee, marino-costiere, possano essere preparate ad affrontare le sfide che saranno imposte dai cambiamenti climatici nei prossimi anni. Facciamo una breve pausa, tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, slowly drifting away, wave after wave, slowly drifting, and it feels like you're drowning, pulling against the stream. Can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the. easy to love me, still I reach, find a way, I'm stuck here in between, I'm looking for the right words to say, I'm slowly drifting, drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the street, pulling against the Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di finanziamenti comunitari con Giulio Volpi della Starter SRL di Padova, una società che si occupa appunto di programmi comunitari, in particolare nel settore agricoltura, foresta e ambiente. L'Unione Europea, anche nel settore della ricerca e sviluppo, è uno dei riferimenti anche in campo ambientale. Anche questo, cioè, come si riesce ad accedere a questi finanziamenti? C'è spazio? Ci si riesce anche come Italia? Sì, allora la Commissione ha un grosso programma di ricerca che si chiama Horizon 2020 o Orizzonti 2020 per dirla all'italiana, è un grosso programma di ricerca che ha preso avvio proprio in questa programmazione 2014-2020, è un programma a finanziamento diretto, quindi gestito direttamente dalla Commissione europea, e al suo interno c'è un intero filone dedicato alle tematiche ambientali, quindi alla ricerca sulle tematiche ambientali. Soggetti pubblici e privati, compresi centri di ricerca, ma anche imprese, possono concorrere per vedersi assegnare delle risorse per realizzare appunto attività di ricerca, sperimentazione, ma anche di trasferimento dei risultati della ricerca verso i potenziali beneficiari. E quindi all'interno di questo programma possono essere disponibili le risorse per non solo creare delle soluzioni per risolvere i problemi ambientali, ma anche per far sì che queste soluzioni trovino poi effettiva applicazione, implementazione all'interno del territorio europeo, perché non bisogna dimenticare che la logica con la quale la Commissione eroga questi finanziamenti è che questi devono sempre avere un valore aggiunto europeo. In pratica la logica qual è? Ciascuno Stato membro deve finanziarsi autonomamente quelle attività di ricerca e di sviluppo che hanno una ricaduta unica e localizzata sul proprio territorio. Laddove però l'Unione fa la forza, vuoi per esempio perché si possono mettere insieme dei centri di ricerca, dei centri di eccellenza provenienti da vari paesi, vuoi perché le ricadute di una determinata attività di ricerca possono essere estese a diversi territori comunitari, ecco che allora si realizza questo cosiddetto valore aggiunto europeo, e allora la Commissione, attraverso questo programma Horizon 2020, interviene finanziando dei progetti. Bisogna sempre fare attenzione perché ormai su questi tipi di progetti la competizione è molto alta. Ogni volta che c'è una call, cioè una chiamata a presentare progetti, arrivano molte più domande rispetto a quelli che sono le risorse disponibili, e quindi questo fa sì che la competizione sia alta, bisogna presentare progetti realizzati con molta cura, molto coerenti rispetto a quelle che sono le strategie comunitarie, e ovviamente non è facile poi vedersi riconosciuto un finanziamento, e quindi già questo, nel momento in cui un gruppo di lavoro riesce a ottenere un finanziamento, già questo di per sé è, come dire, sintomatico del fatto che alle spalle c'è una capacità, non solo una capacità di fare ricerca o sperimentazione, ma anche proprio una capacità di presentare i propri progetti di ricerca, le proprie attività di sperimentazione, in modo tale da renderle accattivanti e far sì che il valutatore comunitario possa ritenere che un certo progetto più meritevole rispetto ad altri, e questa è la competizione naturale che c'è su tutti i progetti comunitari. Grazie. E passiamo ad alcune notizie, la prima delle quali è proprio in tema con quanto abbiamo appena sentito, perché il nuovo programma LIFE verrà presentato il prossimo giovedì 26 giugno alle ore 14.30 nella Corte Benedettina di Legnaro, sede di Veneto Agricoltura, dove si terrà un workshop in cui sarà illustrata la nuova programmazione e dove si approfondiranno le migliori pratiche a livello regionale. Sempre in tema di finanziamenti, la Giunta regionale ha definitivamente adottato il piano di sviluppo rurale 2014-2020, frutto di oltre un anno di confronti con il sistema agricolo e le sue rappresentanze regionali. Il piano passerà ora all'esame del Consiglio regionale e poi della Commissione europea, che avrà 6 mesi di tempo per le sue osservazioni prima della definitiva approvazione. Il programma Veneto dispone di una dotazione finanziaria di 1 miliardo 184 milioni di euro, finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare della nostra regione. Rispetto alla passata programmazione, i finanziamenti destinati alle aziende private passeranno da 480 a 800 milioni, di cui 150 destinati ai giovani, e oltre il 35% delle risorse, circa 417 milioni di euro, saranno destinati alle zone montane. Tutti i materiali di preparazione al nuovo programma sono disponibili nel portale www.piave.veneto.it. E infine uno sguardo alle cosiddette colonie verdi estive, ovvero i centri estivi per i ragazzi nelle fattorie. Secondo Coldiretti stanno vivendo un vero boom. In queste aziende i ragazzi fanno le cose più varie, dall'imparare a cavalcare oppure passeggiare nei boschi, curare gli animali nella stalla, fare il formaggio o impastare il pane. L'Agri Campus è una valida alternativa ai soggetti che prediligono la vita sedentaria o l'ozio sul divano, ed è pure stimolante anche nei casi di iperattività infantile, sostiene Coldiretti, spiegando che aie e cortili sono spazi ampi a sufficienza per divertirsi nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il quadrifoglio. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.